Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, benvenuti a tutti, questa è Blu Radio Sera, siamo all'interno di Blu Radio Veneto nella programmazione serale riservata a quella che è la musica d'autore e do anche il benvenuto a Maurizio Calzavara che mi sta ascoltando e vedendo dall'altra parte del vetro. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Come già anche i nostri teleascoltatori, oserei dire web ascoltatori, esatto, hanno potuto vedere nel corso della preparazione dello studio, abbiamo degli ospiti preparati con due chitarre magnifiche, arrivano direttamente dalla Francia corta, non parlano il francese corto che potrebbe essere, ma parlano il bresciano, eccoli qua, diamo il benvenuto a Daniele Gozzetti e a Paolo Cavagnini, eccoli qua. Buonasera. Buonasera. Allora come va? Fatto un buon viaggio? Bellissimo, sì. Ho sì, capito. Molto... Sì, in autostrada, bella, ampia, spaziosa. In un volo. Va bene, quindi ecco, benvenuti in frequenza. Voi siete venuti perché c'è un qualcosa di speciale da fare. Le chitarre non le avete portate per compagnia, ma per suonare. Sì. Esatto. Poi possono sempre servire, magari lungo la strada ci mettiamo col cappellino, non si sa mai. Sì, beh, certo, è una forma di guadagno. Esatto. Poi in questo periodo buttala via, voglio dire. Bene, allora non abbiamo presentato adeguatamente i nostri ospiti, torno a presentare Daniele Gozzetti che è il primario di questa serata dove ascolteremo molti pezzi del suo ultimo lavoro ed è accompagnato in questa serata appunto da Paolo Cavagnini con un'altra deliziosa chitarra. Allora Maurizio, cosa hanno combinato? Beh, Daniele ha combinato parecchie cose, ha combinato, non so se è il quarto album questo che fai praticamente. Il terzo. Con due album totalmente dedicati al dialetto bresciano. Esatto. Come mai questa idea del dialetto bresciano? Ma è nata tanti anni fa, un po' per sperimentazione su questa lingua così dura, apparentemente. Molto dura. Esatto. Esattamente. E un po' per affetto, più che affetto, per amore per la tradizione nostra, insomma, per la nostra terra, per i significati comunque che trasportano certe parole, insomma, un po' per questa doppia valenza ho iniziato così. Sì, non pronuncio il disco di esordio del 2000, pronuncialo te, perché Lea Moacchela. Perfetto, che è stato il miglior disco d'esordio dalla rivista del settore, L'Isola che non c'era. Sì, è stato citato, sì. L'Isola che non c'era, una rivista molto importante dal punto di vista della cultura cantautorale. Sì, infatti è stata una soddisfazione imprevista. Benissimo. E poi c'eri la corte di Charlie Cinelli. Chi è questo Charlie Cinelli? Charlie Cinelli è un po'... un factotum in senso positivo. Sì, è un po', non so se hai presente Van der Sfross. Sì, certo. Ecco, un po' il Van der Sfross bresciano. Del bresciano. Anzi, se posso permettermi, è molto meglio il Van der Sfross. Ecco, perfetto. Viene via da... Il campanilismo, sì, Flavio, esatto. Il campanilismo arriva sempre. Sì. C'è poco da fare. No, ecco, a parte tutto, è un musicista di lunga data, ha suonato con Mina, con Zucchero e quant'altro. E poi ha fatto un periodo in Inghilterra, quando è tornato ha iniziato, è stato un po' il primo che ha iniziato a dare una veste un po' moderna, un utilizzo un po' diverso dal solito jeng dal dialetto, insomma. E ha cominciato così, è stato lui un po' rivoluzionario sul tempo, però rispetto, se posso rimanere un po' in questo paragone con Van der Sfross, è rimasto un po' più confinato, diciamo, dalle nostre parti, perché io credo sia un po' colpa un po' del nostro dialetto, come dicevi, certo, un po' incomprensibile. Van der Sfross è avanzato, ha oltrepassato certo. È un po' più facile, un po' più, diciamo, l'Ovest Lombardia, certo, è un po' più simile al dialetto, noi invece siamo solo Brescia e Bergamo e... Un po' come Arlecchino, eravamo i vostri sudditi e quindi ci conoscete bene. È vero. Sì. Mi ricordo sempre che per prendere in giro un po' anche i bresciani dalle nostre parti si dice tahita uta tahura, esatto, che non so cosa voglia dire, però fa bella, fa bella presenza. Sì, no? Sì, è lui. Chissà, eccoci, voi cosa dite di veneti. ma sì, ci sono un po' di detti così, però... Quindi primo album del 2000, poi un secondo album simile in dialetto del 2002. Daniele. Esatto, sì, quello era un EP. Un EP. Malmustus. Che vuol dire Malmustus? Vuol dire scontroso. Ah, scontroso. Malmustuso. E poi una serie di compilation, raccolte e quant'altro, fino poi ad arrivare a questa esperienza in italiano. Ti sei un po' sdoganato, cioè nel senso positivo, ti sei un po' allontanato per fare veramente un disco in italiano. Sì, è un lavoro iniziato qualche anno fa, già almeno da 3 anni. Ci sto lavorando su, ed era proprio un po' un'esigenza, un po' quello che stiamo dicendo un po' scherzosamente, però alla fine è un po' un'esigenza che sentivo, perché al di là dell'olio o del mincio era dura, insomma, riuscire, io non sarei mai venuto qua, per esempio. Sì, tu hai detto una cosa molto bella, provengo da Franciacorta e sono apprezzo il buon vino e la musica, perché Franciacorta, dobbiamo ricordarlo, che è una terra bellissima per il vino. Sì, sì, si sta lanciando sempre di più, poi ultimamente la stanno valorizzando da questo punto di vista. E ti sei allontanato però da quelle tematiche leggermente folk, in qualche momento ci sono, sì. Però hai ampliato l'orizzonte mettendo un po' di ritmi sudamericani. Sì, sì, sì, fa parte di tutto questo pacchetto, diciamo, di viaggio. Casualmente ho iniziato un'avventura personale, un'esperienza forte, personale, e ho conosciuto un'associazione che ha sede a Brescia ma che lavora soprattutto in Brasile. Sono stato là per qualche tempo, avanti e indietro, così sono ancora in contatto tuttora con la comunità brasiliana, certo, che c'è qua. E con la musica sono riuscito anche a fare delle strimpellate da quelle parti, insomma, e senza saperlo me la sono trovata addosso un po', e ben shakerato tutto insieme è salto fuori questo disco, insomma. Non saprei darti una motivazione scientifica del perché. No, ma hai allargato gli orizzonti, hai perfezionato certi meccanismi e sei andato avanti praticamente. Sì, credo di sì, spero. Insomma. No, sicuramente. Io l'ho sentito, il disco è un disco vario, ma fatto bene, con i punti antichi, se mi è consentito, sì, il termine, cioè legati al folk, sì, ma sì, non soltanto al folk, vai, sì, avanti, vai. Altri orizzonti, altre lidi, altre strade, mi pare giusto, mm-hmm, che sia giusto. È una evoluzione. Cosa, sì, dici? Sì, sarebbe... Era l'obiettivo, spero di essere. Chiaramente, sì, sì, chiaramente. Grazie, certo, anzi, per queste. Allora, io direi che non si può continuare a parlare di musica se non prima aver fatto ascoltare anche un pezzo di quello che è il nuovo lavoro di Daniele Gozzetti, che si intitola appunto Dani Goz. E allora, per iniziare bene la cosa, direi di inserire subito nella programmazione nostra musicale un disco che ha a che fare con un paese che è dalle vostre parti, sì, quindi tale Gardone Riviera. Esatto, esatto. Vabbè, allora lo ascoltiamo e poi torniamo a commentarlo insieme qui dalle frequenze di Blu Radio Veneto con Daniele Gozzetti. Davvero triste per colpa sua. Ora più che mai era sola coi suoi guai, sempre, per sempre, per lui. Quel tipo di vita l'aveva poi scelto lei, e lei non amava negare la verità, e ora voleva tenersela più che mai, decisa com'era trovare cos'è la felicità. Non perdono il filo, non sbagliano i vecchi attori, non sbaglia obiettivo chi punta a spezzarti il cuore. Lei non sbagliava vestito in nessuna occasione, sbaglia solo chi insegna cos'è la felicità. La che lei adorava. Tremenda come Cleopatra, della sua vita nera padrona lei. Sul letto di ferro, dove l'anima di notte andava a fuoco, da tempo non capiva, da sola nel suo dolore pensando a lui. Ora più che mai ogni lacrima era un guaio, sempre per lui. Quel tipo di vita l'aveva poi scelto lei, e lei non amava negare la verità, e ora voleva tenersela più che mai, decisa com'era a trovare cos'è la felicità. Non perdono il filo, non sbagliano i vecchi attori, non sbaglia obiettivo che punta a spezzarti il cuore. Lei non sbagliava vestito in nessuna occasione, sbaglia solo chi insegna cos'è la felicità. Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, ascoltata per intero Gardone Riviera. Abbiamo qui all'interno dei nostri studi di Blu Radio Veneto Dani Goz, accompagnato da Paolo Cavagnini per quella che sarà la parte in versione acustica, perché naturalmente non ascolteremo solamente brani da disco, ma visto che guarda caso hanno le chitarre, perché non farli sfogare, diciamo, musicalmente parlando. Bene, ancora benvenuto a Daniele e benvenuto a Paolo. Daniele, questo è un pezzo, io ieri sera scrivendo le note, ha un inizio alla Fred Buscaglione, molto interessante, molto significativo. Fred Buscaglione era un mito, è sempre stato un mito e continuerà a essere un mito per, per certe tematiche sonore. Anche il luogo, sì. La scelta anche di questa località sul lago di Garda è un po' la Buscaglione, perché è molto retro, molto, è bellissima, elegantissima, ma traspare un po' di questa nostalgia, di questo romanticismo decadente, tra virgolette, sì. Sempre in accezione positiva, ovviamente. Certamente, sempre positiva. E anche il personaggio femminile doveva essere un po' così, aveva bisogno di questo contorno sia sonoro che... questo contorno, che tu hai detto, di musica sudamericana, io pensavo che fosse un chitarrista spagnolo, invece è brasiliano. Lui è brasiliano, sì, ed è il trombettista. Il trombettista, sì, sì. Che adesso studia a Rovigo, mi diceva. Sì, è qui a Rovigo, da queste parti, sì. E come mai questa, questa idea di mettere la tromba? Ma è perché... come ti dicevo, fa parte di questo cammino iniziato qualche tempo fa, e quindi era necessario aggiungere, secondo me, ovviamente questo strumento. Di solito, vabbè, ero abituato a sentirlo in sezione nelle big band, oppure nelle sezioni appunto di rhythm and blues, nei gruppi che sento spesso. Invece la tromba da solo è uno strumento a parte, oltre che essere bellissimo, ti dà anche questa possibilità. Poi vabbè, fa parte poi della loro... della tradizione comunque sudamericana, in particolare vabbè messicana eccetera, però riesce a trasmettere alcune emozioni, sensazioni necessarie. Cosa dici, Flavio, ci sta bene Gardone con la tromba, secondo me? Beh, assolutamente sì. Assolutamente sì. Comunque ricordiamo anche ai nostri ascoltatori che la nostra trasmissione non è solamente da sentire, è anche da vedere, per questo vi diamo la possibilità di collegarvi col sito internet diretta rockwave.altervista.org per vedere le nostre belle faccione, ecco, le nostre ma anche quelle dei nostri artisti. In questo caso abbiamo Daniele Gozzetti e chi l'accompagna alla chitarra, che è Paolo Cavagnini. Ancora buona serata, ragazzi, siete carichi, fate vedere un bel sorriso sulla webcam, così fantastico, quindi va bene. Questo, Daniele, è un pezzo che hai scritto recentemente rispetto alle altre tracce del disco, oppure un pezzo più vecchio? Ma è nato un po' di tempo fa questo, in effetti. E non era poi così, non era nato in questo arrangiamento, non è stato pensato così. però è nato un po' di tempo fa, sì, in effetti. Perché sono sempre stato affezionato a questa, c'è anche il vittoriale poi di D'Annunzio. Mi ha sempre trasmesso questa nostalgia di tempi, bei tempi che furono. Non so, c'era il Casinò che adesso non c'è più, e motoscafi Riva bellissimi. Ormeggia che parcheggiati, che è stato di barcheggiati fuori. Ha sempre avuto questo, avevo voglia di riuscire a collocare qualcosa in un'atmosfera così, e quindi è andato un po' di tempo fa, in effetti, sì. Benissimo. Quindi è nato un po' di tempo fa. L'album dove è stato inciso? Dove l'hai inciso? In che studio? Qui a Brescia? O... Sì, a Brescia, sì. La produzione è tua o oppure? No, sono un'etichetta indipendente di Brescia, si chiama Viola Pop. Citiamo anche il tuo manager, che stasera doveva venire. Esatto, Maria, sente. Che salutiamo, Maria. Benissimo, Chisolo. Certo. Esatto, e l'etichetta, che si chiama appunto Viola Pop, è quella che in altre parole ha lanciato all'inizio Yuri, quello di X Factor. Ah, Yuri! Sì. C'era anche lui, poi vabbè, ovviamente ha preso altre strade. Esatto, però sono, insomma, è nato da lì. E quindi è nato un po' con loro. È la prima volta che collaboro con un'etichetta vera, tra virgolette. Quindi c'erano meccanismi che non conoscevo tanto bene. Sono stati un po' di cose da aggiustare. Insomma, è stato anche interessante. Ma qual è il rapporto tra chi si affaccia per la prima volta nel mondo della discografia? C'è sempre qualcosa di cui bisogna stare attenti? Parliamo dal punto di vista di artisti, perché sappiamo che magari dall'altro punto di vista prettamente economico c'è sempre qualcuno che cerca di prendersi più merito dell'artista poi effettivo. Ma sì, ci sono dei meccanismi che per me erano un po' nuovi, perché i CD che citavamo prima sono nati un po'... sempre a livello comunque professionale, però erano un po' più... non saprei come definire, folk anche nella nascita, artigianalmente parlando. Ecco, era un po' più alla bresciana, dalla officina sotto casa. Sì, sì, certo. Ecco, un po' tipico la nostra. E questa invece, con l'etichetta, con una figura di riferimento costante, con un produttore artistico, sempre comunque limitato a una dimensione di etichetta indipendente, un editore che era un editore importante, che poi la Warner. Sono tutte figure che hanno un loro peso, hanno bisogno di essere, insomma, non saprei come dire, devi sempre discutere sempre di qualcosa, anche in buona fede, però c'è sempre qualcosa da verificare. Flavio forse voleva dire questo, ma sei stato libero totalmente nelle scelte, ecco, dei pezzi, questo voglio dire. Nella scelta dei pezzi sì, però ho dovuto un po' battagliare per alcune cose, sì. Ci sono dei pezzi vecchi che tu hai citato prima, magari ne parleremo, quello che dicevamo prima, certo, a microfoni spenti, quello non volevano metterlo, per esempio. Perché era troppo staccato rispetto a noi, invece, insomma. Tu invece hai premuto, avete trovato un compromesso. Sì, un compromesso, sono riusciti a trovarlo, così. Perfetto. Bene, allora Maurizio, visto che, insomma, abbiamo tanto tempo, però non tantissimo, allora, ecco, mettiamo subito mano agli strumenti, perché è giusto vedere anche dalla viva voce di Daniele Gozzetti e dalle chitarre, in questo caso accompagnato anche da Paolo Cavagnini, e sentire qualche altro pezzo del tuo ultimo lavoro, Daniele. Ok. Io inizierei con la prima traccia del CD, che è La Milonga del Marinaio del Capitano. Un'atmosfera un po' cupa da pub, baraccio di periferia, ci vuole un po' di fumo, due che si picchiano in un angolo, due che si baciano di là, cominciamo. Qua. Daniele Gozzetti, Dani Goz, La Milonga del Marinaio e del Capitano. Si ritrovarono in un bar a stappare molte bottiglie di rum, e fu questo il porto fatale, e lo fu tanto al punto che in fondo al mare ora riposano tutti e due. Fu per una bionda pazza che ballava sola fino all'alba ogni dì, ma si muoveva in un modo che guardarla era già desiderio. Dopo quel suo corpo e quella promessa, non era giovane ma provocante e parlava di finalmente, non le importava che la tirassero a sorte. Giunse la notte, giunse champagne e giunse l'ora della verità, e la scommessa in fondo la vinse la morte. Fu per una bionda pazza che ballava sola fino all'alba ogni dì, ma si muoveva in un modo che guardarla era già desiderio. Tutto per quel suo corpo e quella promessa. Le donne vanno, gli uomini soli scendono al bar, e nella notte tutto vale. E senti il tuo cuore battere al ritmo della milonga, che è la milonga del marinaio e del capitano. Fu per una bionda pazza che ballava sola fino all'alba ogni dì, ma si muoveva in un modo che guardarla era già desiderio. Tutto per quel suo corpo e quella promessa. Del marinaio e del capitano, che la milonga del marinaio e del capitano, che la milonga del marinaio e del capitano, che la milonga del marinaio e del capitano. Ed ecco qua la milonga del marinaio del capitano, a cantarla Daniele Gozzetti, a accompagnarlo anche Paolo Cavagnini all'altra chitarra. Allora una piccola pausa riservata alla nostra pubblicità, ma poi ritorniamo subito in diretta qui con Blu Radio Sera e con Daniele Gozzetti. Focus, l'attualità dal Veneto. C'è un'attualità diversa su Blu Radio Veneto e Focus, la trasmissione in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 8:15 minuti, dove la notizia è commentata dagli stessi protagonisti. Vi aspetto. Focus, l'attualità dal Veneto. Ed eccoci qua, 21 e 29 minuti prima in questo istante, sempre con Blu Radio Sera. Buona serata ancora a tutti voi da parte di Flavio Bilato, Maurizio Calzavar dall'altra parte del vetro, con i nostri ospiti Daniele Gozzetti, per la presentazione del suo ultimo lavoro, che si intitola Dani Goz e che è un po' un'abbreviazione di quello che è il nome di Daniele Gozzetti, ma anche nasconde qualcos'altro il titolo. Ma sì, era una sorta di gioco, vabbè, se posso concedermelo, perché così era per quelli che già mi conoscevano nella mia zona, che si trovavano prima nella provincia di Brescia. Era già evidente che fossi io, ma con questa abbreviazione con cui mi chiamano comunque sempre. E invece, per chi invece non aveva mai sentito, come tutto il resto al di là, come dicevamo, dal mincio dell'olio, era un po' così, poteva, credo potesse creare un po' questa confusione, ma il nome, il CD, insomma, una cosa che certo. Mi è sempre piaciuto negli album di quelli veri che sentivo, che trovavo insomma nella storia del Beh, adesso sei anche tu uno vero, perché voglio dire ormai qua non si capisce più niente qua. È vero, c'è tanto di virtuale in giro. Sì. Fortuna, esatto. Fortuna che vi vedono anche in carne ed ossa adesso, esatto, proprio grazie al webcam, ecco. Vabbè, anche il fotografo, grazie Alberto Prisco, il nostro fotografo, che è anche l'organizzatore, il direttore artistico delle trasmissioni. Esatto. Quindi. Ok, parliamo della traccia numero uno. Questo tu l'hai fatta dal vivo, ma è la traccia numero uno del disco. È una cover praticamente. Esatto, una cover. È nata allora, è una cover di un gruppo spagnolo formato per metà da musicisti argentini e metà spagnoli. Si chiamano Los Rodriguez. E si è sciolto alla fine degli anni 90. E ha avuto un largo successo da quelle parti. Tuttora sono canzoni molto conosciute. Per intendersi, potrebbe essere paragonabile un po' ai nostri Litfiba come, ho capito, come fama, come periodo, certo, e quant'altro. È un gruppo che ho conosciuto grazie a un'amica spagnola, perché mi ha passato i primi CD. Poi da lì ho approfondito. Insomma, mi piace molto perché è molto contaminato con le loro origini. E sia sudamericane, per quella parte sudamericana, parte spagnola con un po' di flamenco e rock, e insomma è una bella commistione molto interessante, molto coinvolgente. E questa canzone in particolare mi piaceva per l'atmosfera naif che io un po' cercato di introdurre prima, però. Posso dirti una cosa? Sì? Io ieri sera ho sentito tutti i pezzi del disco, qui l'hai completamente allargata, costruita in modo diverso, mentre nel disco a me sembrava molto inconsciamente con qualche collegamento legato a Manu Chao. È possibile secondo te? Beh sì, è abbastanza un inconscio collegamento, l'ho sentita così, quei pezzi, quei collegamenti così virtuali che poi spariscono. Poi invece l'hai completamente rifatta, secondo me hai dato una grinta incredibile in questo momento qui dal vivo, sì, assieme a Paolo. Sì, beh, dal vivo noi cerchiamo sempre di... Hai giocato in senso positivo? Sì. Beh, è un po' la cosa che ci contraddistingue un po' dal vivo, insomma. È una battuta che facevamo prima con Flavio. Dal vivo, cioè, noi siamo gente che viene via dal live, insomma, dalla gavetta, insomma, non è che... Quindi il vivo, la parte dal vivo è quella che ci dà più soddisfazione, riusciamo a buttarci dentro un po' di tutto. Ma è una cosa molto positiva, secondo me. Ma speriamo. Sì, certamente. Cosa dici, Flavio? Ma io stavo anche, tra altre cose, sfogliando anche un po' la copertina che richiama molto anche i paesi. Sì. Sono foto che ho fatto io in giro. Foto, anzi. Foto è cioè, bresciana, foto. Sì, perché c'è anche una maniera diversa di dire. Esatto. In inglese picture, esatto. In bresciano com'è? Foto e moto. Vabbè, allora, cosa facciamo, Maurizio? Facciamo sentire un altro pezzo dal vivo. Facciamo sentire un altro pezzo dal vivo? Sì, dal vivo. Benissimo, allora cosa ci regalate? Ma allora, per restare... in tema al di là, stiamo al di là dell'oceano, se vi va. Sì, non al di là del micio. No, al di là non siamo. Così un po' sempre scherzosamente, diciamo, insomma, abbiamo preso un bastimento e siamo arrivati a Salvador de Bahia, dove abbiamo conosciuto Amado, Jorge Amado, o Jorge, se lo pronunciano in spagnolo. E questo è un po' un omaggio a lui, alle sue tematiche, insomma, la passione predomina sempre rispetto alla ragione, a quel che bisognerebbe fare, invece c'è sempre un po' più di... l'istinto viene sempre a vincere. Qui l'amore succede, ho cercato di dare un po' di fare un omaggio proprio ad Amado, e questo è L'amore succede. Non con un coltello alla gola, non si vende, non si compra, non si impone, non lo pesi come un ciondolo d'ottone, come la pioggia o il temporale, arriva e c'è chi sta bene e c'è chi sta male. Dove vai, dove vai, se ti porta anche dei guai? Dove vai, dove vai, tu che non lo trovi mai? Come un temporale, l'amore succede quanto durerà, fino a quando... quando reggera, ma come una botta al piede, l'amore succede, l'amore arriva, capita, succede. Uno sguardo, una parola, un gesto e il fuoco è acceso, brucia petto, bocca e tutto perde peso. Ed io che non ho colpe, dimmi che farò. Io che non l'ho voluto, come mi difenderò? Dove vai, se ti porta anche dei guai? Dove vai, non lo trovi mai. Ma come un temporale, l'amore succede quanto durerà, fino a quando reggerà. Ma come una botta al piede, l'amore succede, l'amore arriva, capita, succede. Come un temporale, l'amore succede quanto durerà, fino a quando reggerà. Ma come una botta al piede, l'amore succede, l'amore arriva, capita, succede. Ed eccolo qua, Daniele Gozzetti, con un altro pezzo davvero cantato col cuore, l'amore succede, tratto dal suo ultimo lavoro che si intitola Dani Goz, in questa serata accompagnato anche da Paolo Cavagnini. Un applauso a tutti e due, veramente bravi, se non ci facciamo tra di noi, anche perché ascoltare da lontano gli ascoltatori, insomma. Vabbè. Allora, siete ancora i benvenuti all'interno di Blu Radio Sera, abbiamo spazio ancora poco meno di un'ora, comunque avremo modo di ascoltare ancora dei pezzi di Daniele Gozzetti, e perché no ricordare subito anche quello che è il sito internet di Daniele, che è www.gozzetti.it, all'interno del quale si possono curiosare le varie informazioni riguardo il suo disco attuale, ma anche riguardo ai dischi precedenti, quindi ricordiamo dal 2000 al 2002 fino ad arrivare al disco di oggi con L'Elamo. L'Elamo Aghela, ok, quasi ci eravamo nel 2000 e poi ancora di va bene, grande, non mi faccio leggere qualcosa di lì, esatto. E poi Malmustus invece, o Malmustus, non così, so, così, Malmustus, sì. Ecco, del 2002, sempre Daniele Gozzetti. Poi questo pezzo, Daniele, è una cosa che ho osservato ieri sera sentendolo più di una volta, ha un ritornello straordinario, accattivante al 100% e ti prende immediatamente. L'ho rimesso su un sacco di volte perché tu l'hai costruito bene e ci hai messo quel ritornello proprio al centro che attira immediatamente l'ascoltatore, secondo me, a mio parere. Questa è una mia impressione. Ti ringrazio molto. No, veramente, anche qua dal vivo che l'hai fatto, il ritornello è proprio trascinante, porta avanti il discorso. Grazie davvero, non so, sono cose che vengono un po'... Come l'hai inventato questo pezzo? Come l'hai creato? Ma non saprei, anzi a dire la verità l'ho scritto con un charango all'inizio. Il temino l'ho fatto con l'inizio... Tin, tin, e tin, per tin. I comuni mortali cos'è il charango? Il charango, scusate, è il chitarrino di scorta quando buchi la chitarra, no, il chitarrino piccolo così... andino, quello che usano, si vede sì, spesso. Quello a quattro corde, cos'è? Sì, sono tutti parenti. Questo è a cinque perché è andino il charango, è boliviano, peruviano. Quello a quattro corde è anche l'ukulele, ma poi l'ukulele, ce ne sono un sacco di varianti. Sono tutti comunque simili come suono, come suono, struttura e anche accordatura più o meno. Sono tutti figli, insomma, della stessa. Nello stesso strumento che poi si è un po' evoluto e personalizzato, ma sostanzialmente sempre quello. E l'ho scritto con quello, quindi è nato un po' così, è nato un po' con questo suono quasi per caso, quindi non saprei. E visto che ci siamo, possiamo ricordare i musicisti che hanno dato una mano, oltre a Paolo, che fa adesso. Sì, allora, Max Comincini, che è il batterista, e poi un percussionista molto bravo che si chiama Maurizio Giannone, abita sul lago dalle nostre parti, ma lui è un musicista di ampio respiro, lui suona molto in Germania, e con suo fratello si chiamano Cori Me, lo ricordo perché comunque meritano davvero molto, fanno musica etnica nel vero senso della parola, insomma sono molto contaminati, bravissimi. Poi c'è Ugo De Leon, il nostro trombettista brasiliano, c'è Nicola Anni al basso, Vittorio Bianchi alle tastiere, Maria Ventura, poi ho avuto un sacco di ospiti, di amici così, Maria Ventura alla chitarra classica, e adesso poi sai che Giovanni Rovati, mannaggia che se sta sentendo mi ammazza, se mi ha dimenticato. Giovanni Rovati, mannaggia, sì bravissimo chitarrista, Lino Sabbadini, anche lui mi taglia le gomme. Elisa Turcato i cori. Tanta gente. Ce ne sono tanti, sì, perché appunto hanno tutti contribuito un po' a mettere un tocco personale, credo, un po' tutto. Certo, un tocco personale che ci sta rendendo una trasmissione davvero formidabile in questa serata. Va bene, ricordiamo ancora gli ascoltatori, Daniele Gozzetti è venuto per presentare il suo ultimo lavoro che si intitola appunto Danny Goz, del quale stiamo ascoltando sia tracce dal CD ma anche tracce tracciate proprio dal vivo in questa serata su Blu Radio Sera. Allora diamo un po' di fiato ai nostri ospiti ascoltando qualcosa anche dal CD. Cosa abbiamo scelto, Maurizio? La traccia numero 5, vero Daniele? Sì, Huracán. Huracán, sì, Huracán. Benissimo, l'ascoltiamo. Huracán. Su di me fa veramente troppo caldo, presto un uragano. Tu l'hai capito troppo tardi, vedevi un uomo che non c'è, i tuoi sogni son bugiardi, non avevi visto lui. Allora alza quella musica se puoi e grida forte per mandare il dolore via da te. Sarà più facile il perdono se lo chiedi dritto a Dio. Degli animali della notte l'uomo non perdona mai. La luna ti odia, lo sai. È troppo caldo con i tuoi occhi su di me, ora il vento sta salendo, presto un uragano. È territorio di battaglia, passione e dignità, ora le porte sono aperte, chissà chi le varcherà. Allora alza quelle mani per il coraggio che non hai. Non c'è nessuno che perdoni eccessiva libertà. Il santo che tu preghi è già vivo dentro te. Il tamburo batte forte con il cuore dentro. La luna ti odia, lo sai. Cerchi un mondo che non... Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, questa traccia che abbiamo ascoltato è Huracan, a cantarla Daniele Gozzetti. Già mi ricordavo un altro artista che aveva dedicato un pezzo a un uragano, no? Hurricane. No, vabbè, dai. L'ho pensato in questo momento, mi è venuto spontaneo. Siamo sbiancati tutti. Sì, è vero. Nel realizzare. Esattamente. Huracan, cantato quindi alla bresciana, anche questo, Huracan, no? No, è in spagnolo questo. In spagnolo, sì. Huracan. Sì, Huracan, okay, sì. Bene. In spagnolo. Le percussioni iniziali che ci sono molto interessanti, che li suona, quelle abbiamo citato prima, chiaramente. Maurizio Giannone, ecco. Proprio ragazzo. Volutamente fatte in una maniera un po' particolare, che poi sì. Dà il là per poi per ampliare il discorso. Sì, sì, sì, sì, è entrato proprio nello spirito di questo pezzo, che un po' riprende i riti di candomblé o macumba, che dir si voglia, insomma, voleva essere un po'. In questo ambito un po' misterioso, un po' di sincretismo religioso tra i santi cristiani e le divinità africane. Lui è entrato bene nello spirito di questo brano, ha reso benissimo per l'inizio, è eccezionale, secondo me proprio è stato bravo lui. E vedi caso, è la traccia numero 5, c'è una spiegazione secondo me qualche volta, è proprio a metà del percorso, è significativo a mio parere, non so se sei d'accordo. Sì, sì, sì, è vero. Sì, verissimo. Sì. Ti riporta un po' di qua, poi è finita la prima parte del viaggio e si ritorna. Esattamente, era proprio questo. Bene, allora Maurizio, io direi che c'è sempre spazio, se poi in velocità, per quel classico giochino che facciamo. Si fa giochino? Certo che lo facciamo anche giochino. Se è molto veloce. Loro non lo sanno. Non lo sanno ancora, di fatti. Non lo sanno ancora. No, niente, non è preoccupato. Okay. Quindi, assolutamente, state pure seduti, comodi, non arriva nessun babau a prendervi anche in questo caso. No, vi chiediamo solamente, è una domanda che solitamente facciamo a tutti, perché ci piace capire anche quelle che sono le provenienze musicali, anche solamente per capire anche quella che è la musica che ascoltate e che vi appassiona di più. Quindi sia a Daniele Gozzetti sia a Paolo, che poi avremo piacere di sentire anche in voce, chiederemo quali sono i cinque artisti che voi vi portereste in un'isola deserta, pronti a partire proprio così di botto sulla valigia. Quali, oltre al lettore CD o un bel giradischi, cominciamo da Paolo. Ecco, inizio qua. Io porterei Creusa de Mar di Fabrizio De André. Beh. Me l'hai rubato, ma visto per quello che ho iniziato io. Credo porterei un LP a scelta, ma proprio estratto a caso, di Wes Montgomery. Probabilmente per i miei ricordi di infanzia porterei Rimmel di De Gregori. Ne avrei già abbastanza, né? Però 5, ne avrei ancora 2. Ancora 2, forse qualcosa di. Anche qua, scelta di Leonard Cohen, che è un artista a cui sono legato sempre dall'infanzia. Senti. Grazie. Ecco, Rimmel. È arrivato Rimmel. Visto che c'è. Grazie. E poi per i miei studi che feci al tempo, credo che porterei un album, forse Song for My Father di Horace Silver. Ah, benissimo. Bene, abbiamo certe cose mi hanno fatto anche curiosità, Paolo, ti devo dire, perché grazie. Non conoscevo soprattutto questo Wes Montgomery, ecco. Un grande chitarrista jazz degli anni 60. Bene. 50, fino agli anni 50 e poi per tutti gli anni 60. Uno dei più grandi, insomma, uno di quelli che hanno fatto la storia dello strumento. Certo, è un chitarrista di colore anche. Chitarrista di colore. Sì, adesso ricordo anch'io. Bene, allora tu pensavi di scapparla, in realtà, caro Daniele, tocca a te adesso. Allora. Sicuramente un disco di Springsteen, a scelta. Quale? Sì, sto pensando forse per motivi d'affetto, Born in the USA, perché è stato quello che ero piccolo, cioè avevo quell'età giusta per innamorarmi, insomma, della cosa. Ma anche The River, sarei incerto sui due. Eccolo là. non poteva mancare. Poi, allora, A me piace moltissimo, anche per motivi sempre affettivi, insomma c'è sempre questo commistione, però anche perché secondo me è un grandissimo album, Burattino senza fili, di Bennato. Bennato, sì. Che mi piace tantissimo. Poi un disco di Dire Straits. Qualsiasi. Magari Alchemy. Ah, quello okay. Dal vivo. Che... Quello doppio dal vivo. Esatto. Doppio vinile, una volta esatto, era così. Esatto, esatto. E poi sto pensando un rock and roll per forza, un rockabilly... Anche un Elvis, una raccolta di Elvis. Ce ne sono tante, dovrei... a tuo piacimento. Esatto. E poi è recente, però mi sono proprio innamorato di questi Los Rodriguez che citavamo prima. Quella band che abbiamo citato. Sì, mi sono proprio appassionato, no, delle canzoni bellissime che mi piacciono, testi, che musica, insomma. Quello non me lo porterei, sacrificherei magari... Altri che sono lì a pari merito, che sto pensando, però forse meriterebbe. Sono arrivato a 5. Sì, sei arrivato a 5, complimenti. Grazie. Fantastico, ce l'abbiamo fatta anche questa sera. Ecco, solitamente chiedono anche a noi i dischi, ma ormai tutti lo sanno. No, sto scherzando. No, ma a parte gli scherzi. No, ne abbiamo fatte non so quante puntate. Abbiamo i nostri dischi preferiti. Sì, perché uno che lavora in radio... sono tutti segreti. Non è facile. Sono tutti segreti. Ad esempio, ultimamente mi porterei via anche il disco di Danny Gozzi. Ecco. Grazie. Come sesta scelta in questo caso. Sesta, ecco, benissimo. Ecco, allora, se gli ascoltatori ancora non l'hanno capito, lo capiranno adesso, perché stiamo piacevolmente conversando con Daniele Gozzetti. È venuto a trovarci assieme a Paolo Cavagnini direttamente dalla Francia Corta per la presentazione di questo suo nuovo lavoro che si intitola Danny Gozz, dal quale stiamo estrapolando qualche canzone da CD e anche naturalmente le stiamo assaporando dal vivo con queste due magnifiche chitarre e la voce di Daniele Gozzetti. Suoniamo, Daniele, cosa dici? Volentieri. Ok. Cosa ci fai sentire adesso? Allora adesso volevo tornare un po' dalle nostre parti e creare un po', perché adesso fa caldo. Sì, oggi sì particolarmente. Sono, esatto. Bisogna tornare indietro di qualche mese, in una serata piovosa e buia, quando fa buio presto, in una via un po' stretta dove si sente soltanto, magari proprio un lunedì sera o un martedì, dove comunque c'è in giro poca gente, sentire soltanto i passi e un colpo di tosse, ed è l'atmosfera giusta per da qualche mese a questa parte, che è il brano. L'unico segno di vita è il mio colpo di tosse nervosa su questa strada normale, lungo questa via piovosa. Il buio è un concetto opinabile, relativo pure a lui. La fotografia dal satellite rivela che il mondo non dorme più. A questa parte ho la vita in disordine e non tolgo mai le scarpe. Uno della mia età passa nel rango rispettabile, e invece sono qua da qualche mese a questa parte. Ma perché non ritorno nel mio appartamento nuovo? Non sopporto le scatole e quella lampada a forma di uovo. L'inizio è stato semplice, non ci credevo in fondo, ma sono ancora qua e il tempo passa. Come mai da qualche mese a questa parte ho la vita in disordine e non tolgo mai le scarpe? Ero sicuro anch'io, non c'è senso a continuare. Muore la libertà e nessuno vuole soffocare. capire dove sono. Sento che hai cominciato un'altra vita. Lo sento ormai da qualche mese a questa parte. Ed ecco qua, da qualche mese a questa parte, si intitola così questo pezzo, tratto dall'ultimo lavoro di Daniele Gozzetti, che si intitola Dani Goz, e tra altre cose c'è anche un bel libricino che accompagna il CD con tutti i testi delle canzoni di Daniele Gozzetti, e in particolar modo in questa canzone, da qualche mese a questa parte, c'è anche un bel cartello di 50 all'ora e con scritto anche Purgatorio. Sì. Questa cosa mi ha incuriosito parecchio. Sì, è una località che ho trovato in Portogallo, ecco, facendo un giro da quelle parti, l'avevo immortalata ed è poi venuta buona, come si dice, ho messo via un po' di materiale, poi è venuta buona proprio per quel pezzo lì, perché è un po' un pezzo, vabbè, al di là dei primi due con cui ho iniziato stasera, che insomma sono un po' più coinvolgenti dal punto di vista musicale, questa è più, un po' più dolorosa, perché tratta di un tema, ahimè, abbastanza frequente, molto vicino insomma anche a noi, a me insomma. E che è così facile così insomma il tema della separazione, della fine di un amore, ma anche strutturato e costruito nel tempo, poi appunto finisce, sembra un po' così semplice da liquidare, che insomma si entra a far parte di statistiche, ma in realtà c'è alle spalle comunque un dolore, la fine di qualcosa di importante, di scelte da lasciare la propria casa, insomma c'è, insomma, andrebbe fa pensare una ballad triste tra virgolette, sì, sì, malinconica, triste. Malinconica, sì anche malinconica, ma secondo me, siccome lo sento vicino, sono esplorato a poco, insomma è una cosa che sì è un rischio tra virgolette che può capitare, che certo, è capitato tanti a tutti, capiterà magari, chissà, però spesso viene un po' così liquidato facilmente. Io invece sono abbastanza, è un dolore, sì, in ogni sì, caso sì, è un dolore, sia un dolore per uno che per l'altro, un certo, dolore che rimane, sì, un dolore chiaramente. Va bene, non versiamo più lacrime. No, comunque voglio dire, le canzoni ricordano sempre momenti felici e anche momenti malinconici. Questo era un esempio malinconico, ma tenuto in grande stile con la canzone che, appunto, ricordiamo, si intitola Da qualche mese a questa parte. Maurizio. Sì, a me interessava quel bel giochetto chitarristico che ha fatto Paolo, che ha colorato il pezzo nel vero e proprio senso del termine. Come mai Paolo ha avuto questa idea interessante di colorarlo in questo momento qui a Rockaway alle 21:59? Ma è nato un po' dal, insomma, quando ci siamo seduti a pensare a come poteva essere strutturato questo pezzo dal vivo, abbiamo detto, ma perché non proviamo a inserire un qualcosa di musicale che però si lega un po' a quello che dice la canzone, un po' al testo, quindi magari un solo non troppo solare, sì, una cosa legata un po' più crepuscolare, sì esatto, una cosa che si sposa bene con la canzone. Io ho proposto a Daniele questa cosa, lui ha accettato e a me ha fatto piacere, ovviamente. E adesso, quando la proponiamo dal vivo, inseriamo sempre questo inserto, piccolo, certo, piccolo inserto musicale, che però magari può servire anche per così, per vedere il brano in un'altra maniera, in maniera diversa. Esattamente. Sì. A proposito di live, Daniele, tu hai accompagnato, hai aperto dei concerti di personaggi bresciani. Sì. Sì, in particolare di Omar Pedrini. Cioè, ex Timoria, grande. Ex Timoria, esatto. Beh, leader incontrastato, esatto, assieme a Renga, sì, anche se Renga poi se n'è andato per altre parti. Sì, l'anima era lui sostanzialmente, sì, di Timoria. Sì, ho avuto questa fortuna, lo conosco non da tantissimo, a dire la verità, pur essendo, anzi, siamo addirittura compaesani, perché lui da diversi anni abita a Paderno, Franciacorta, dove abito io, e ci siamo conosciuti più o meno recentemente, insomma, sono 5-6 anni ci conosciamo. Ho avuto questa fortuna, insomma, grazie alla sua amicizia, di aprire i suoi concerti. Ed è stata una bella esperienza, ovviamente, perché ha messo, eccolo lì, ha messo a disposizione il suo pubblico. È stato bello, insomma, e ha tenuto un po' a battesimo alcune canzoni. Non era ancora nato il CD all'inizio, ho iniziato lo stesso appunto a fare qualche brano prima di lui, poi anche quando poi il CD è uscito e quant'altro, ho fatto qualche data a qualche apertura, sì. Ma hai collaborato con altra gente dal vivo, sì. Poi ho aperto la tappa bresciana di Bubola. Certo. Di Massimo Bubola, e ho aperto Van der Sfros, che citavamo prima, esatto. Non mi farà più aprire, se ha sentito. No, scherzo. No, è solo uno scherzo, chiaramente. Sì, sì, sì, sì, certo. E sto pensando, poi, no, di altri big. Non ho... Però ti sei dato da fare, cioè sì, hai, sì, suonato, sì. Suoni spesso, insomma. Sì, sì, come dicevo prima, insomma, non era un modo di dire. Cerchiamo sempre di suonare, insomma, se ci chiamano noi andiamo, certo. Magari anche sbagliando, non è molto politicamente corretto come atteggiamento, perché a volte ce lo rimproverano, ma è un po' più forte di noi, insomma, se c'è da suonare. No, suonare è sempre corretto, no? Cosa dici, Flavio? Beh, assolutamente sì, suonare finché c'è il suono c'è la vita, insomma, per quanto riguarda noi della radio, insomma. Stiamo portando avanti questo grande discorso, e avere sempre artisti così disponibili ci fa veramente gioia e onore, soprattutto. E no, quindi... poi è bello comunque trovare... riuscire, insomma, a trovare situazioni del genere, insomma, un'ora e mezza dedicata è un lusso che non trovi tanto, quindi bisogna partire e andare velocissimi anche a prendere occasioni. Io ti chiederei una cosa, di farmi dal vivo, se è possibile, la traccia che io amo particolarmente da questo disco, la traccia numero 11. Volentieri. Che il titolo vuoi dire te? La solita canzone. Che è un pezzo bellissimo, secondo me, e un pezzo folk che ritorna, forse antica, forse le cose un po' più vecchie hai fatto, però è nella dimensione 2010, nella tua dimensione. Esatto, è un pezzo che ho scritto, forse uno dei più vecchi come scrittura, e l'ho tenuto nel cassetto per un po' e l'ho tirato fuori per questo CD. Esatto, anche se si allontana leggermente dagli altri, ma questo non vuol dire assolutamente nulla, esatto. Secondo me. Ok. Ok, la solita canzone. Stai partendo e te ne vai da qui. Dicono che sei ormai lontana. Prima d'ora non mi ero sentito mai così ridicolo e con la gola secca. Quando sento ancora la tua voce qui con me, so che è l'alcol della sera prima. E il mio cuore batte col rumore di una fabbrica, di quelle che riempiono le mie vie. Ora che tu parti e che te ne vai da qui, io so già che è inutile pensare. Ci penso come se fosse la trama di un buon film, rassicurante ma piuttosto ovvio. E invece pianto bene i piedi in questa mia terra, che mi fa pregare a bassa voce. Invece delle lacrime pretende il mio sudore, e il resto prima o dopo tanto passa. Ma ora tutto mi soffoca, oh, è la sabbia che ha portato il vento. Mi viene voglia di correre, di far cadere con un colpo tutto. Mi viene voglia di ridere perché passerà il più presto, tanto tutto così, lo dicono tutti è così. Per fortuna il tempo so che ti cancellerà, e forse io mi terrò qualcosa. Quello che in paese certo mai racconterò, tanto riderebbero comunque. A chi mi vede sembra che non me ne freghi niente, sanno che non perdo sonno mai. E invece resterei seduto tutto il giorno, e nella pancia ho un formicaio. Ma ora tutto mi sa, o è la sabbia che mi cade dentro ed è già tempo di correre, di far cadere con un colpo tutto, mi viene voglia di ridere perché passerà al più presto, tanto tutto è così, lo dico a tutti è così. Te ne vai da qui, è tutto già la solita canzone, la solita canzone, con amore e nostalgia, inutile e abbastanza ovvio. Allora, la solita canzone, Daniele Gozzetti qui su Blu Radio Veneto, una canzone triste anche questa, ma però che forse dietro l'angolo lascia trasparire una speranza. Sì, è un po' più legata davvero alla nostra terra, alla nostra, ma proprio sto dicendo anche in generale, insomma, dove siamo un po' così noi da queste parti, insomma, ci si tiene un po' dentro tutto, anche il dolore e... anche quando questo può far male, piuttosto che urlare e lasciarsi andare, che insomma, a volte sarebbe anche meglio. E insomma, un po' così, anche questo è intimista, in effetti, sì, come dicevi tu. E poi il tempo è sempre galante, si spera sempre che metta a posto le cose, anche se non capita sempre. Esatto. però c'è la speranza che questo esatto. In ogni caso, il pezzo era molto bello. Mi complimento con te, l'hai ricreato ancora una volta dal vivo, con qualche piccolo cambiamento nel senso positivo del termine. A me è piaciuto, piaceva già quando l'ho sentito ad album e mi piace anche qua, l'ho sentito adesso, quindi grazie, sono molto contento che tu abbia eseguito per noi, per tutti gli ascoltatori di Rockwave e no, o di Blu Radio Sera. Cosa diciamo, Rockwave, Blu Radio Sera? Diciamole tutte e due, tanto sono diciamo due contenitori serali che si sposano bene insieme. Ecco, allora ricordiamo ancora una volta quello che è il sito internet di Daniele Gozzetti, che è www.gozzetti.it. All'interno di questo sito ci sono le foto, ci sono dei video, c'è una rassegna stampa che parla del lavoro di Daniele Gozzetti, anche ripreso da alcune prestigiose diciamo giornali della zona, anche tra le altre cose vedo anche c'è stata un'ottima recensione da parte di Mia Pavia, sì? miapavia.it, sì, sì. Dove si parla molto bene di questo tuo lavoro. E poi anche di vediamo c'è sì, un'altra che... recensione, insomma sono Mescalina che ha fatto sì, una Mescalina, Mescalina sì, sì. Sì, ci sono diversi diciamo giornalisti che si sono interessati positivamente a questo tuo lavoro. Sì, sembra piano piano, insomma, si cerca di muoversi con calma, insomma, sono tutti i tempi ormai ci ho fatto il callo ormai, se ti immagino quando finisci vorresti spaccare il mondo, vorresti andare, fare, eccetera, ma poi i tempi sono comunque così. Certo. Piano piano vediamo dove si andrà. Ma è sì, giusto così, insomma, con il fiume scorre lento. Sì, appunto, per ribadire un concetto che hai detto qualche secondo fa. I piedi ben piantati, esatto, nella mia esatto. Terra fatta di uomini che pregano a bassa voce anziché urlare, quindi sì, così, alla fine così, quindi così, pazienza, ecco. No, ci vuole pazienza, ma vai avanti lo stesso, nonostante tutto, chiaramente. Mm-hmm. Ok, Flavio, cosa dici? Beh, potremmo ascoltare qualcos'altro, sì, ancora un pezzo dal CD, tanto per prendere un po' di fiato per tutti loro. Insieme, quale scegliamo? Che traccia vuoi scegliere, Daniele? Ma... stavo pensando, non sa niente nessuno, oppure? Cos'è che... Com'è? facciamo dal vivo quella, se c'è ancora spazio. Mi c'è ancora spazio dal vivo, sì, ci sono circa 20, 19 minuti. Sì, allora facciamo insieme. Consiglierei non sa niente nessuno. Dai, dai. Non sa niente nessuno, sì, che poi magari... Non sa niente nessuno, la traccia numero 6, eccola qua che adesso parte. Benissimo, allora sempre rigorosamente in diretta dalle frequenze di Blu Radio Veneto, sempre con Daniele Gozzetti, la presentazione del suo nuovo lavoro che si intitola Dani Goz, ecco qua, un'altra traccia che parte. Il salto ormai non lo faccio più. Poi tra l'altro fumo sigarette greche con il tabacco che picchia un bel po'. Arriverò prima, oggi ho deciso, tocca a me, che starò meglio a fine mese. Per questa volta la lingua in terra l'avrò io, e poi bottiglia, e poi baci delle miss. Tanti conti poi li faccio io, coi corvi neri sopra le mie spalle. Hanno detto che li manda Dio, e i segni viola sotto pelle. Non li ho solo io, non sa niente nessuno. Il discorso è già chiuso, non sa niente nessuno. Io non so chi ha deciso. Calerò l'asso, ora è giusto far così. La molla e poi vi lascio lì. Il fiato grosso non si nasconde più, ma vi battezzo e tutti fermi lì. Fuoco dal culo e occhi di bile, un giorno finiranno anche le pile. Voi zitti tutti che può parlare solo Dio. Ai segni viola sotto pelle, non li ho solo io, non sa niente nessuno. Il discorso è già chiuso, non sa niente nessuno. Io non so chi ha deciso. Questo è quel che ho deciso io. Il discorso è già chiuso. Non sa niente nessuno. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E abbiamo ascoltato anche un altro pezzo dal lavoro Dani Goz che si intitola Non sa niente nessuno. Un bel ritmo a ragionare su questa canzone. Daniele, ancora benvenuto in frequenza. Sono gli ultimi 15 minuti che passiamo insieme e commentiamo questo pezzo che ha un'atmosfera molto brasileira. Sì, sì, questa è proprio una bossa nova. Ecco. Sì. Per un tema invece molto più nostrano, molto più vicino proprio alle nostre esperienze, la nostra cronaca alla fine, perché... Tutti i giorni purtroppo. Tutti i giorni, sì. È nato tutto grazie ai racconti di un amico carissimo, che ha per anni fatto il ciclista a livelli alti, con nomi, ha corso insieme a tanti campioni. Nomi eccellenti. Ed era non sa niente nessuno, era la frase tipica con cui concludeva i suoi racconti agghiaccianti, tra virgolette, del fenomeno del doping. Insomma, alla fine sì, mi raccontava un po' di quello che succedeva e quello che succede, immagino. E alla fine c'è tanto non sa niente nessuno, ironico ovviamente, perché in realtà sanno benissimo tutti come va. Ahimè, e questo è quanto, insomma, ho cercato di raccontare un po' così, ancora una volta però senza assolutamente voler giudicare, perché per carità è l'ultimo, anzi anche lì ne va proprio della vita alla fine, è un rischio, un dolore che si mettono, che provano sulla propria pelle ognuno di loro, di questi corridori che insomma no. Sì, perché si parte per gioco, per propria passione, e poi si diventa il gioco e la passione degli altri, no? Esatto. Cessa di esistere il motivo principale per cui uno sta correndo. Il gioco, esatto, diventa quello degli altri, la passione è quella degli altri, e alla fine i conti con i corvi neri sul davanzale li fanno loro. Li fanno loro, assolutamente. Si trovano davvero alla mia età, che adesso io ormai sono sempre abbastanza giovane, non più giovanissimo. Decisamente giovane. Alla fine di una carriera si ritrovano vecchi, distrutti dentro. Anche se non sono vecchi. Anche se non sono vecchi. Esattamente. Sono vecchi proprio fisicamente, mentalmente, me lo diceva questo amico, insomma, di persona. Ho cercato proprio di prendere questo lato umano, un lato umano senza timore, perché potrebbe essere additati come quello che insomma punta il dito, e in realtà non è così, non è assolutamente così. E l'hai costruito con una bossa nova, praticamente. Sì, con una bossa nova, sì, voleva essere un contrasto. Esattamente, sì. Proprio così, sì, un contrasto tra la tematica musicale e la tematica del testo, molto importante, molto pesante, molto significativo. Bene, allora mancano ancora 13 minuti. Suoniamo. Dai, allora mano alle chitarre, ancora benvenuti anche sulla nostra webcam all'interno di direttarockwave.altervista.org per chi ha voluto vedere anche Daniele Gozzetti accompagnato da Paolo Cavagnini per questa performance live all'interno dei nostri studi di Blu Radio Veneto. Disordinato, non sento più il mio cuore, fuori fase come un albero motore, sentimentalmente poco valutato, la conseguenza è stata il mio peccato, e il giorno dopo, a dire il vero, m'ha scioccato, non ho avuto alcuna lama nel costato, quel che veramente brucia e so che pagherò è l'assenza più completa di dolore. Una serie di domande sono nate. O mio vecchio cuore, dove sei finito? Non lo so, mi sento male. Non ho più il cuore, perché a quest'ora sarei già in confessionale. Perché non provo quel bel dolore che mi fa sentire meglio col mio errore. Una scusa veramente non c'è stata, un litigio avrebbe certo aiutato, quel che veramente brucia e so che pagherò è l'assenza più completa di dolore. Io la notte non riesco più a dormire, sono diventato, quale uomo io sarò, mi sento male, non ho più un cuore, è da giorni che non sento alcun rumore, era un regalo, io l'ho perduto, e chi lo sa se per un giorno ho perdonato, mi sento male, chi mi ha rubato il cuore, sarà forse sprofondato in fondo al mare. Perché non provo quel bel dolore che mi fa sentire meglio col mio errore. non riesco più a dormire. Cosa sono diventato? Quale uomo io sarò? Mi sento male. Dov'è il mio cuore? Sarà forse sprofondato in fondo al mare. Era un regalo, io l'ho perduto. Chi lo sa se è vero un giorno ho perdonato. Mi sento male, chi mi ha rubato il cuore? È da giorni che non sento alcun rumore. Era un regalo, io l'ho perduto. E chi lo sa se è vero un giorno ho perdonato. Mi sento male, chi mi ha rubato il cuore? È da giorni che non sento alcun rumore. Era un regalo, io l'ho perduto. E chi lo sa se è vero un giorno ho perdonato. Eccolo qua. Sappiamo chi siamo, ma non sappiamo chi o che cosa possiamo diventare. Fantastico, fantastico. Daniele Gozzetti, qui con noi su Blu Radio Veneto. Allora, Daniele, sì? Zanzanù, una storia de pora. Esatto. Ecco, cos'è? Questo fa parte di un progetto parallelo, mm-hmm. Che è più teatrale che musicale. E stiamo portando avanti insieme a un'attrice che si chiama Giuseppina Turra, attualmente in tournée, è italiana, un'attrice proprio fortissima che lavora a livelli alti, insomma, e a Pier Giorgio Cinelli, che è un altro musicista bresciano. Abbiamo creato questo spettacolo su un bandito gardesano molto legato alla Repubblica di Venezia, perché nel 1500, quattro 1500-1600 terrorizzò le nostre zone del lago di Garda, ma è braccato e nemico giurato di Venezia. Venne poi però giustiziato dalla popolazione perché non ne poteva più, era un disgraziato, insomma. Insomma, è una leggenda così, questo personaggio che è realmente esistito, un po' dimenticato dalla nostra, perché noi abbiamo questo brutto difetto, noi della nostra zona, che le tradizioni e le leggende e i personaggi di questo tipo vengono un po' così lasciati un po'. Era uno Zanni, per identificarlo anche come figura mascherata. Poteva essere, sì. Diventa uno Zanni nello spettacolo, diventa un po' uno Zanni, sì. Prende un po' questa figura, sì. Bene, quindi è uno spettacolo che comunque adesso fate dalle vostre parti, in quanto molto sentito, e ho visto all'interno del tuo sito che c'è il 6 di giugno, perché si trova magari anche da quelle parti, gli ascoltatori di Blu Radio Veneto, siete a Borgo San Giacomo, in quel di Brescia. E che poi nella bassa, verso il confine, verso la pianura proprio laggiù. Bene, poi ancora il 4 di agosto, prima delle ferie, andate a Tignale, sempre in provincia di Brescia. Ed è lì proprio, c'è un santuario dove l'hanno ammazzato sostanzialmente, ed è sull'alto lago di Garda, un posto molto molto bello, e lo faremo lì. Ed è organizzato, tra l'altro, apro una piccola parentesi, in collaborazione con l'Università di Venezia, perché un professore in un corso di universitario ha dedicato proprio uno studio a questo brigante in rapporto con i podestà veneti. Insomma, c'è stata una lunga battaglia e ci siamo messi in contatto, ci siamo scambiati, abbiamo usato molto materiale che ci ha passato lui, e è un po' organizzato insieme a loro, quindi è un po', insomma. Bene, e quindi uno spettacolino che magari anche in lingua, voglio dire, nel vernacolo. Sì, esatto. Sì. È Zanzanù, che poi è pronunciato con la Z. Zanzanù. La Z, esatto. parla soprattutto in dialetto, però ci sono interventi comunque tratti dai documenti ufficiali veneti, abbastanza fruibile. E per chi non capisce, ci sono amici che non capiscono il dialetto, che l'hanno visto, riescono comunque a seguirlo, perché poi l'attrice che interpreta il bandito è eccezionale. È appunto uno Zanni, perché si fa capire, pur senza capire le parole, insomma. Certo, si fa capire a gesti, per ricordare Zanni, è un arlecchino, un traccagnino, ecco come lo chiamavano dalle nostre e anche dalle vostre parti. Sì. Bene, quindi è stata una grande fortuna comunque per avere l'arlecchino dalle nostre parti, perché così Goldoni ha fatto un po' di soldi in più. Mannaggia, è vero. Noi ha scritto un capitolo grandissimo di storia. Sì, assolutamente. Vabbè, sì, allora, che dire, è stato un grande piacere avere con noi Daniele Gozzetti questa sera. Ci ha presentato il suo ultimo lavoro, Danny Goz, non è arrivato a mani vuote, ci ha portato due bellissime chitarre che terremo come ricordo, grazie mille, no, sto scherzando, ovviamente. Voglio dire, è stato veramente piacevole avervi qui da noi per farci ascoltare la tua deliziosa musica, Daniele, accompagnato da Paolo che ha suonato meravigliosamente la chitarra, e quindi speriamo di ritrovarvi presto qui sui nostri studi. Sì, speriamo davvero, perché anche per noi è stato molto bello, e vi ringrazio molto perché non è facile trovare uno spazio così dedicato e ampio oggigiorno nei media. E quindi grazie davvero per la Blu Radio Sera e Rock Wave. È questo, noi siamo la musica, l'essenza della musica passa di qua, e anche voi ci avete aiutato a coronare questi nostri piccoli traguardi, diciamo, però decisivi. Anche i nostri ascoltatori ci premiano per questo, naturalmente ascoltandoci, ecco. Esatto. E poi ecco un'ultima cosa per trovare il disco, non l'abbiamo mai detto. Esatto. Allora, metodo più facile è iTunes. Hai detto bene, sì, iTunes, sì, sì, mi confondo, MySpace, eccetera. Comunque su iTunes sì, è quello più immediato e agile. E poi io credo sia un po' distribuito, però essendo appunto un'etichetta indipendente, non credo che ci siano grandi disponibilità nelle grandi catene. Sono nei negozi più quelli poi di vecchi, il classico vecchio negozio di dischi, lì forse è facile trovarlo. Bene. Ma nelle grandi istituzioni non credo ancora, perché siamo ancora così, insomma, indipendenti. Vi allargherete. Speriamo, sì, magari sì, anche noi. Allora, noi ci salutiamo da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavare, tutto, però prima di salutare Daniele e Paolo, un'ultima canzone. Ok. È vero? Bene. Sì. L'uomo non è stato sulla luna. Visto dall'alto, il paese non deve essere male. Il vero motivo per cui un giorno quelli sono venuti qui. Lì c'è sempre uno, poco prima di cadere. Lì c'è sempre uno al suo quinto bicchiere. Un sorso deciso dopo di sicuro vi racconterà. Ne dà testimonianza il suo vecchio espone. È rimasto tale quale alla notte di anni fa. Giura che in agosto, ma c'era stata nebbia. Giura che quel faro non era un mietitrebbia, ma quella notte magica han preso lui e l'han portato via. Ma è stato un volo cosmico, a volte quasi magico, e tutto era più limpido, a tratti quasi liquido. Di certezza lui ne ha soltanto una. L'uomo non è stato sulla luna. Tutti erano là quel giorno, incollati le ancor poche televisioni. Un'estate polverosa e nessuno fuori dai bar. Non è vero niente di quel giorno speciale. Non è vero niente che quell'uomo è andato lassù. Gliel'han detto veramente quelli che quel giorno l'han rapito. La luna poi l'ha vista e assicura che non era così. Ma è stato un volo cosmico, a volte quasi magico, e tutto era più limpido, a tratti quasi liquido. Di certezza lui ne ha soltanto una. No, cosmico, forse lui ne ha soltanto una. L'uomo non è stato sulla luna.